tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate. Passa sempre per sparisce tutta la terra, sparisce tutto. Qua devi qua fra 2 anni qua non esiste più niente. Ma devi sparire tutto, ormai non resta qualche campo e basta. Sparisce tutto qua. Perché ni capisce, lì a terra che mamma era nata. Ti cosa mai? Pastiglie, no? Spaghetti, quattro, galline come mangiamo noi altri, però se mi porta via a terra cosa mangiamo? Porta Dio, vasso sangue a terra. Te li accavi. Perché la tradizione è una roba più tenere in piedi. Mie e mio fratello abbiamo i cavalli, abbiamo i galline, abbiamo i conigli, abbiamo i faiani, abbiamo tutto. Perché? Perché siamo nati in mezzo, facendo una tradizione. Siamo nati, buttiamo via tutto, io butto via tutto, tu butti via tutto, e domani cosa avremo? Vieni qua fra 2 anni qua non esiste più niente qua. Mosca, caduta del comunismo, 20 agosto 1991. Io c'ero. Ero andato per acquistare 3 alberghi a Mosca. Io sono il primo della filiera dell'industria. Perché faccio la trasformazione da terreno agricolo in terreno industriale. Dal terreno agricolo in terreno industriale. Io sono perché prima del capannone vengo io. Perché la terra la devo urbanizzare, devo fare acqua, luce, gas, fognatura bianca, fognatura nera, telefono, gas, tutto gli devo fare, devo portare. I marciapiedi, asfalti, tutto, devo fare tutto. E poi ci fanno sopra il capannone. E perché io se dovessi investire, investirei sempre nella terra. E lui, guardate, è l'unico, guardatemi in faccia, l'unica cosa al mondo che ce l'è sempre di meno. Natale, ci saranno più automobili, più case, più aerei, più motociclette, più quel cazzo che vuoi tu, ma la roba sarà sempre meno e sarà sempre più stretta la terra. Questo è il discorso. Ci saranno meno foreste, meno fiumi, meno paesaggi, meno natura e più che cosa? Più allevamenti, più fabbriche. Perché? Perché non sei più i 6 miliardi, ma sarai 10 miliardi, 12 miliardi, 15 miliardi. E benvenute e benvenuti sulle frequenze di Radio Eustachio, ma non solo. Qua è il Ponte Radio, una trasmissione settimanale gestita collettivamente da 7 radio che trasmettono in simultanea questo programma, e a turno ogni settimana ogni radio ne conduce appunto ne fa la conduzione, insomma, e ne costruisce i contenuti. Arriviamo alla settimana dopo del turno di Radio Onda Rossa, dove hanno fatto una puntata molto interessante sul nucleare, sull'evoluzione che sta cercando di avere in questo periodo. Oggi invece, con la puntata che ci apprestiamo a trasmettere, affronteremo invece un altro tema. È più legato al territorio di Verona, alla Valpolicella in particolare, e a due aspetti, diciamo, di questo territorio che sono quelli che più fortemente stanno un po', come si può dire, si vedono caratterizzata, diciamo, il capitalismo in queste terre. Uno è l'aspetto del paesaggio, il cambiamento del paesaggio di fronte a tutti questi anni, sia di costruzioni edili che di monoculture agricole, e l'altro in particolare è la lotta attuale contro i nuovi OGM, i TEA, e svilupperemo la puntata su queste due direttive qua. L'introduzione. Ed è per questo, infatti, che abbiamo scelto questo spezzone di introduzione, perché è tratto da un documentario del 2010 che si chiama Nord-Est. È un documentario di Milo Adami e di Luca Scivoletto. Nonostante sia del 2010, è molto interessante da guardare, perché è particolarmente poco parlato e molto potente visivamente. Fa un viaggio con la telecamera sulla statale 11 da Venezia al lago di Garda, e quindi una panoramica di tutto del territorio veneto e del suo maxi sfruttamento, distruzione delle campagne, espropri ai contadini. Quindi ci tenevamo a farvi sentire un pezzettino di due pareri ossimoriche, di due pareri ossimorici di abitanti veneti, e appunto entriamo nel vivo della puntata con questa pillola di ascolto. E l'anno scorso è stato pubblicato un libro che si intitola Terra delle mie brame, il caso Valpolicella, e con oggi, nella prima parte della puntata, volevamo affrontare appunto con l'autore le questioni che tratta in questo libro. Ora prenderemo del tempo con un pezzo musicale per il collegamento telefonico e buon ascolto. Responde al tablero. Voy a salir a pedalear y es fácil. A veces ver amigos Ciao a tutte e tutti, mentre ci colleghiamo con Federico, l'autore di Terra delle mie brame, il caso Valpolicella, edito da Libreria Editrice Fiorentina, ne approfittiamo per ricordarvi i contatti per scriverci sia via sms che via mail, quindi il numero della radio è 351-9127-269. Mentre per chi volesse scriverci una mail, scriva a eustacchio@posta.indivia.net. Ok, siamo quindi in collegamento con Gabriele, l'autore di Valpolicella, terra delle mie brame. Un libro che è difficile forse farne un'introduzione, diciamo, organica, in quanto già... In come si presenta nell'esposizione è segmentata e frammentata, proprio come vuole far vedere anche un po' quel che ne è stato del paesaggio della Valpolicella. Se Gabriele vuoi spiegarci un po' anche il principio, l'inizio, quel che ti ha spinto a fare questo lavoro. Ciao Gabriele. Buongiorno a tutti, grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. E sono molto contento di avere questa possibilità di parlare del lavoro che è stato fatto e vi ringrazio molto perché in qualche modo vi sento alleati nella resistenza percettiva di cui parlo nel libro. E veramente questo lavoro nasce in seguito a non voler arrendermi a queste continue offese sul paesaggio della Valpolicella. E nella fattispecie, quando è iniziata la costruzione di un fabbricato del vino del gruppo vitivinicolo Masi S.P.A. a Monteleone, a Gargagnago di Valpolicella. E quindi nasce da una contestazione prima partita con una lettera inviata al sindaco e alla sovrintendenza di Verona, in cui mi ci dicessero come giustificavano in qualche modo un fabbricato un fabbricato del vino così impattante e una ferita così importante su quello che rimane ancora di vivo del paesaggio della Valpolicella. E dopo da lì è nata tutta quanta una riflessione su come io, o in qualche modo come noi, vediamo il paesaggio. E ecco, direi che ho trovato anche un appoggio non sempre facile dalle stesse associazioni ancora in vita in Valpolicella, e da lì siamo partiti con una serie di lettere in cui noi chiedevamo costantemente spiegazioni a chi di dovere, cioè nella fattispecie al sindaco Albino Zorzi del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella e alla sovrintendenza, per poi rivolgersi anche agli organi più alti del Ministero della Cultura. E sì, se posso, ecco, qui questo giusto... è il punto iniziale del libro. E anche se l'idea che di base che svilupperò nel libro risale ben prima, al 2010, quando in occasione di una presentazione di un altro mio libro sulla speculazione edilizia in Valpolicella, Negrarizzazione, dissi allora che dovevamo costituire, istituire, creare una rete di resistenza percettiva. Ecco. Questo era allora sia le richieste alla sovrintendenza che stavi descrivendo prima, sia questo aspetto della negralizzazione di cui hai scritto più di 10 anni fa, si rifanno a un vincolo paesaggistico. Se puoi descriverci un attimo, perché questo qua è abbastanza sì. fondamentale, perché è stato appunto... è stato richiesto dalla stessa sovrintendenza di Verona nel 1957, però a quanto pare di questo vincolo non sembrerebbe, a vedere proprio il paesaggio, che abbia funzionato in qualche maniera. Sì, effettivamente è proprio così. Il vincolo istituito nel 1957 dall'allora sovrintendente Pietro Gazzolla è stato un vincolo, se vogliamo, che non ha avuto quegli effetti di tutela che ci si aspettava. E devo dire che in questa denuncia della mancanza di rispetto del vincolo paesaggistico, negli anni 60 aveva trovato una voce molto autorevole in Giuseppe Silvestri, un giornalista, scrittore, uno delle figure di spicco per me della cultura veronese, e morto nel 1973, che quando l'Arena, diciamo, era ancora un giornale, possiamo dire, aperto ad una pluralità di voci anche in dissenso nei confronti del potere economico che ora controlla la Valpolicella, ma non solo la Valpolicella, e ebbe la possibilità di denunciare quello che stava avvenendo in Valpolicella come la rovina a cui stava andando incontro attraverso una edilizia scriteriata non rispettosa della storia del territorio. Ecco, io veramente Giuseppe Silvestri dovremmo essere sempre molto riconoscenti, nonostante il fatto che dopo di fatto il depauperamento estetico, la rovina estetica della Valpolicella, salvo qualche rara zona o comunque zona, sto pensando soprattutto alla parte alta del comune di Marano di Valpolicella, sia stata rovinata. Ecco, noi, la domanda che mi faccio allora è questa mancanza di applicazione del vincolo. Il vincolo in che cosa consisteva? Consisteva in questo fondamentalmente: i progetti edilizi dovevano andare in sovrintendenza che li doveva approvare. E voglia anche perché lo Stato non aveva assunto organici, voglia anche perché c'è stata una disaffezione, perché di fatto il paesaggio parla da sé, da parte della stessa sovrintendenza nel ruolo di tutela, e succede appunto che questo tipo di vincolo non è stato applicato, ecco. E allora la domanda che mi sono fatta nel libro è questa, perché ogni libro risponde a una domanda, e la mia è: che cosa possiamo fare di fronte al degrado? Ecco, noi, e perché c'è questa assuefazione, in qualche modo, questo dar per scontato di vivere in un luogo degradato? Degradato paesaggisticamente, Negrare è diventato tristemente famoso con la negrarizzazione, che è stato un termine assunto dal linguaggio da parte di Arturo Sandrini, che era stato un architetto, dove parla della negrarizzazione come di un'urbanizzazione selvaggia, selvaggiamente forse scelta a tavolino in qualche modo, che ha ridotto in una grande uniforme antiestetico, esteticamente abusiva, seppur condonata, colata di cemento, scriveva, il comune di Negrar, ma non solo il comune di Negrar, ma anche la Valpolicella, soprattutto nella parte, quella più nella bassa Valpolicella, ma anche nella parte mediana. Insomma, se abbiamo girato un po' la Valpolicella, sapete di cosa sto parlando. Sì, e per chi il Ponte Radio, ovviamente essendo anche un programma che cerca di raccontare le situazioni locali ben oltre i confini territoriali, magari limitati, che questi comportano, stiamo raccontando la Valpolicella anche chi effettivamente non l'ha mai passeggiata. E forse sarebbe un caso anche di descrivere un attimo questo cambiamento, perché si tratta effettivamente di arrivare da una situazione storica di una biodiversità, per esempio, delle culture, di una assenza effettivamente di cementificazione come c'è stato dal dopoguerra in poi. Se possibile, anche se riesci a farne anche tu magari un quadro estetico di che cosa poteva essere prima di tutto ciò. Allora, sicuramente una delle trasformazioni più importanti che da un punto di vista agricolo ha avuto la Valpolicella è stata ciò che ha determinato la filossera, questa malattia delle vigne che di fatto le ha decimate, si parla degli inizi del Novecento. Di fatto, diciamo così, fino alla fine agli inizi dell'età moderna, la Valpolicella era caratterizzata a livello agricolo come gran parte dell'Italia, se non tutta l'Italia, da una policoltura. E quindi ha molti alberi da frutto, sicuramente il vino, e molti olivi e molti ciliegi. Poi quindi possiamo immaginare, sì, prima del boom economico, quindi si parla a ridosso degli anni 50, la Valpolicella era ancora paesaggisticamente intatta. Non per nulla nel vincolo del 57 la sovrintendenza parla di una grande bellezza del paesaggio, e quindi una bellezza dove c'era un'armonia fra lavoro dell'uomo e il paesaggio. Questa armonia viene progressivamente meno quando si afferma la fortuna dell'Amarone. Ricordo che il vino, quello più famoso storicamente della Valpolicella, non è l'Amarone, non è stato l'Amarone, ma il Reciotto. E con l'affermazione a livello internazionale dell'Amarone, si vede una progressiva sempre maggiore affermazione dei vigneti e quindi l'avvio della Valpolicella verso la monocultura, che ha soprattutto voluto dire anche scomparsa dei ciliegi, ad esempio, scomparsa di alberi da frutto e sbancamenti collinari importanti. E quindi l'affermazione di vigneti tecnologici, diciamo io, vigneti che hanno snaturato la stessa storia agraria che era determinata da una grande varietà della Valpolicella. Questo è mi ricordo che nel libro hai anche fatto riferimento al fatto che la vigna stessa viene coltivata in modo diverso, quindi la pergola, che era magari la cultura più tipica del territorio, è stata sostituita dal guyot, che invece è, come dici tu, il vigneto tecnologico approntato alla produzione massima che può dare la vigna, no? Quindi anche da questo punto di vista cambia la cultura della vigna. Non solo cambia la cultura, sì. Non solo cambia il modo di questo passaggio della pergola al guyot, adesso per motivi legati al cambiamento climatico sembra che ci sia un ritorno alla pergola per una serie di motivi per l'ombreggiatura che può avere il grappolo rispetto all'esposizione del guyot. Vi dico, io non sono uno specialista, però sicuramente quella che la Valpolicella ha assistito a questa grandissima, per me, normalizzazione dei campi. I campi della Valpolicella suscitano molta tristezza per me. Sono campi molto spesso palizzati col cemento, sono campi dove si vedono percorsi da tubi di acqua, insomma, sono campi in cui io dico hanno perso, non c'è poesia, ecco. Non solo non c'è poesia, ma sono campi muti, nel senso non si trovano tutta quella varietà di insetti, di farfalle, ad esempio, almeno io dall'esperienza che faccio nei campi dove vado, ne vedo gran pochi, e quindi questa monocultura sappiamo che cosa ha comportato sia a livello di utilizzo di quantità massicce dei fitofarmaci sicuramente, e poi sì, un attacco senza precedenti alla biodiversità del territorio. Ecco, e questa mancanza di poesia, questa normalizzazione, questa scomparsa dei ciliegi, questa riduzione dei boschi, quello a cui si è accompagnato durante gli anni del boom economico un'edilizia scriteriata dove piani regolatori manco esistevano, insomma l'hanno proprio impoverita a livello estetico, e nell'ambito di questo impoverimento estetico sempre più importante, purtroppo ci si sono messe anche adesso questi nuovi progetti, questi progetti già anche realizzati, questi fabbricati del vino, che le committenze di questi progetti dicono essere delle cantine, ma che non hanno nulla della cantina e che io contesto fortemente all'interno del vino. Il cui scopo, se posso già annunciarlo, è quello appunto di scopo che io mi propongo è far sì che il lettore, la lettrice che lo ha in mano possa sviluppare quello che io considero un vedere critico, in modo che non esca dal libro senza interrogarsi su come noi stessi vediamo e che cosa vuol dire in questo momento vedere il paesaggio. Tante volte uso anche la parola post paesaggio, perché tale è la frammentazione, tale è lo smembramento che ha subito, da poter in qualche modo, mi sono sentito un po' autorizzato, potrò essere anche criticato e va bene, questo tipo di termine, cioè di post paesaggio. Ecco, spero che nella lettura del libro chi lo legge possa veramente in qualche modo sviluppare quello che io chiamo uno sguardo dissidente. Uno sguardo dissidente, uno sguardo da disadattato, perché se l'adattamento è mi adatto al degrado, in questo caso al degrado paesaggistico, ecco, allora penso che sia molto importante per noi poter acquisire uno sguardo da dissidente, uno sguardo disadattato. Sì, credo che questa cosa venga abbastanza, cioè sia molto aiutata, molto facilitata con la lettura del libro, anche perché prendi il problema da diverse angolature. Per esempio mi viene in mente il passaggio che fai sulle pubblicità, sui cartelloni pubblicitari, sì, che sono di cui praticamente, beh, in realtà sono ovunque, però la questione proprio dell'essere in Valpolicella, il cosa dicono i cartelloni proprio che esprimono tutta la narrazione sul vino attuale, quella che conosciamo dell'Amarone, ma anche del Valpolicella classico, e collegato poi con tutto quello che è veramente, che sostanzialmente è un business nella finanza. Lo dici fin dall'inizio del libro, che non è un caso, e anzi è proprio emblematica del problema dove ci troviamo, che l'Amarone è quotato in borsa e quindi segue i flussi finanziari piuttosto che delle forzature del territorio agricolo e così via. Volevo chiederti se ti va di dire due parole su questa cosa delle pubblicità, perché c'è stata anche una richiesta alla sovrintendenza per la presenza di questi cartelloni pubblicitari, e come con tutte le richieste fatte, fatalità, è tutto a norma, tutto a regola, quindi non c'è niente che sia andato storto. Sì, io quando ho inviato una lettera al comune di Verona, perché mi sono soprattutto rifatto a una zona della Valpolicella, che è la via Valpolicella, la strada per Arbizzano arrivando da Parona, che dove questi cartelloni pubblicitari insistono sul complesso di Villa Alessandri Zorzi di Parona. E anche qui sono 15, sono 26, mi sembra, questi 15 sono dalla parte della zona della villa e del fondo agrario che si lega alla Villa Zorzi, Alessandri Zorzi. E mi è stato risposto, come dici tu, che va tutto bene, che non devo... Scusa Gabriele se ti interrompo un secondissimo, perché ogni tanto ti sentiamo andare via questo, e tornare. Prova a stare un po' più vicino al microfono, che così abbiamo un... Quello che posso dire è che per me si tratta di uno scempio pubblicitario. E questo scempio pubblicitario, nonostante che tutto sia in regola, perché ci troviamo di fronte a questo nodo. Le leggi sono state rispettate, ma se le leggi sono state rispettate per Monteleone 21 dei Masi, sono state rispettate nella fattispecie per questi cartelloni pubblicitari, sono state rispettate per le lottizzazioni che hanno sconvolto molta parte della Valpolicella, e nonostante tutto questo io mi trovo di fronte a uno scempio, tanto che dico: ma questo è uno scasso legalizzato? Cioè, non è solamente una domanda, perché se le leggi mi portano a tanto, mi chiedo che razza di leggi sono, o quantomeno nella mia prospettiva estetica dico questo è quello che chiamo un abusivismo estetico, cioè il fabbricato, la casa, la lottizzazione hanno tutte le carte in regola, però per me è un fattore di degrado, del paesaggio. E quindi è un po' una linea che percorre un po' tutto il libro. Cioè, di fatto, che cosa lega tutte queste attività economiche che deturpano o che comunque non riescono a entrare in relazione con il paesaggio? È proprio la legge. E la legge chi la fa? Ecco, questi sono un libro pone anche tutta una serie di domande, di quesiti, perché questo è proprio fa parte di quella palestra che considero il lavoro. Cioè ci si deve addestrare per poter acquisire questo vedere critico. Questo vedere critico che mette in crisi il nostro stesso modo di vedere. E noi abbiamo questa grande capacità come umani che riusciamo non solo a vedere, ma riusciamo a questionare il nostro stesso modo di vedere. E qua apro un po' una parentesi, se volete, tanto per farvi capire. Tutta l'arte contemporanea o l'arte moderna contemporanea è una grande sperimentazione del nostro vedere. Perché se pensate, ad esempio, non so che cosa ha voluto dire il cubismo ci pone di fronte a un vedere che sicuramente non è il nostro vedere quotidiano, però lo indaga. Allo stesso modo io ho cercato di indagare un vedere che potesse mettere in crisi il mio modo di considerare il degrado in cui vivo. E ritorno alla domanda che ci dobbiamo fare: perché accettiamo di vivere nel degrado? Perché ad esempio i cittadini di Verona accettano di vivere in un degrado ambientale atmosferico? Noi sappiamo che l'area di Verona è una delle più inquinate. Perché i cittadini della Valpolicella accettano di vivere in un degrado paesaggistico che sembra non aver fine? Perché? La risposta che mi sono dato, che ho in qualche modo illustrato anche durante le presentazioni del libro, è proprio questa: noi viviamo in una narcosi di benessere. Il benessere ci ha narcotizzato, ha tolto in noi questa capacità di contestazione, ha tolto o comunque ha ridotto noi questa volontà e questa forza di critica, e ci ha ridotto a quelle che Noam Chomsky nel libro metto come considera le rane bollite. Ecco, ci ha fatto tutte delle rane bollite. Io a questo gioco di assuefazione non ci sto. E quindi da qui parte tutta quanta la riflessione sulla resistenza percettiva. Anche perché effettivamente poi la Valpolicella è diventato un territorio dormitorio ormai, in cui la gente non vive più lo spazio della Valpolicella per la sua originaria bellezza, ma forse ci abita per una questione anche di territorio rinomato e fondamentalmente se lavora fuori dalla Valpolicella e torna solo a dormire, è chiaro che questa narcolessia di cui parli tu è molto potente, perché non c'è più l'interesse locale per curare quel territorio. No, e questa è il, diciamo così, che è il cancro più terribile che ha in questo momento il territorio della Valpolicella. Questa disaffezione, questa mancanza di interesse, non lo dico che è per tutti, ma insomma, se tutti prendessimo e andassimo a chiedere a chi di dovere, cioè ai sindaci intanto, che cosa fanno sul territorio, e sul paesaggio, penso che da parte della popolazione che la vive, quindi c'è uno scollamento, noi viviamo spesse volte in modo astratto il posto in cui viviamo in modo astratto, e dopo ci relazioniamo con altre forme di bellezza che proviamo, ad esempio in questo continuo viaggiare verso zone o comunque zone del pianeta meno deturpate, in cui poterci, in queste fughe, in questa ricerca di bellezza che quindi dimostra in qualche modo che abbiamo questa necessità di vivere anche la bellezza. E a rientro però da questi viaggi, tran tran ricomincia. Cioè non ci rendiamo conto della vita alienata che facciamo, il fatto che la Valpolicella si sia trasformata in un borgo dormitorio, in mano ancora all'edilizia, in mano alla lobby del vino, la dice molto lunga. E d'altronde uno può chiedere qual è la cura che noi possiamo cercare di effettuare perché non sia più così. È molto difficile, purtroppo è molto difficile. Dico ad esempio che io non sono riuscito ancora a presentare questo libro in Valpolicella, ci sarà un motivo. Vuol dire che c'è qualche cosa che mi fa resistenza a sua volta da parte o da parte della stessa cittadinanza. Adesso probabilmente in maggio riuscirò a presentarlo a distanza di un anno e mezzo, forse troverò voce anche lì. E quindi è una situazione molto complessa che però ha a che fare con l'uomo che siamo diventati, cioè siamo diventati un po' tutti, cioè, questa, come abbiamo detto, questa narcolessia da edonismo del consumo e da benessere che ci rende ciechi. Ora, compito del filosofo sarebbe in questo caso, per quel poco che posso essere io nell'ambito del filosofico, mostrare all'altro la cecità in cui si trova, e spero che con questo libro qui possa aver aperto gli occhi, cioè di fronte a quello in cui in qualche modo viviamo. Sì, oltre all'assopimento che dà anche un po' l'idea di una sorta di sospensione, che nel tempo rimaniamo uguali e semplicemente sospendiamo un certo giudizio o dei certi valori che abbiamo. In realtà poi c'è anche il fatto proprio del cambio di soggetti, nel senso che te lo chiedi anche nel libro, dove sono finiti i contadini o come percepivano i contadini il paesaggio. Leggo direttamente dal libro: non erano forse organicamente aderenti a esso, al punto che la bellezza paesaggistica che loro stessi contribuivano a cesellare, più che essere percepita una tantum, come accadrà in seguito con i borghesi gitanti della domenica, era vissuta quotidianamente senza che essa fosse né oggetto di discorso, né di studio, né tantomeno di tutela. Forse i contadini la parola paesaggio non sapevano neppure cosa volesse dire. Questo passaggio mi piaceva perché bellissimo, era appunto un'interrogazione anche su dov'è finito non solo il soggetto, ma la sua sensibilità e la sua estetica, cioè quella della figura del contadino, nelle varie sfaccettature che può essere, dal piccolo proprietario coltivatore al fittavolo, al mezzadro di una volta o al bracciante stesso. E volevo farti un'ultima... Volevo magari portare un attimo la discussione come chiusura, anche che siamo in chiamata da tanto. Un passaggio molto interessante che fai e che aiuta anche a capire un po' lo sforzo della resistenza percettiva, ed è il passaggio che fai sulla neve. Se puoi dirci due parole su questo, che mi è sembrata una cosa molto, molto bella. Allora, sicuramente la resistenza percettiva ha due grossi campi di applicazione, diciamo così, di prassi, che deve essere una prassi di libertà, deve essere una prassi in cui noi ci deassoggettiamo dal modo con cui vediamo il paesaggio, cioè il modo zonizzato, parcellizzato, atomistico. E quindi una parte riguarda lo smascheramento dei discorsi con cui ci vogliono vendere il paesaggio ancora come se fosse il paesaggio di panorami fantastici, di una amena Valpolicella, e poi c'è anche come noi possiamo affrontare il degrado. In tutto questo io ho trovato un'alleata fondamentale nella neve. Perché la neve? Allora, sicuramente ho una mia sensibilità, noi tutti abbiamo sensibilità per questo o quell'evento meteorologico. E parlo sicuramente la neve come ciò che accende l'incanto, ma non la nevicata, quella una nevicata molto copiosa, quella che in qualche modo smussa tutti gli angoli e nasconde le brutture perché è così. Quello che ho trovato molto, molto utile, in qualche modo anche come esperienza personale che ho fatto, tanto che posso considerare questo tipo di esperienza la base, anche se volete, di questo discorso sulla resistenza percettiva, è dato dalla nevicata, da una nevicata leggera. Ecco, quella nevicata che mi dà la possibilità di vedere come in una fotografia e una radiografia il paesaggio. Ed è così, nel senso che la neve riesce a con la sua luminosità, riesce a penetrare, a mettere in luce la nervatura stessa del paesaggio e capire quanto l'uomo lo abbia bistrattato, quanto lo abbia, se è il caso, rispettato e quanto lo abbia lavorato, quali sono i nervi di questo paesaggio. E credo che questa nell'umiltà della neve leggera sia veramente una possibilità per tutti di riuscire a leggere in modo diverso le nostre attività, come noi trattiamo il paesaggio, perché come trattiamo il paesaggio così noi trattiamo noi stessi. Io dico più volte, noi giudichiamo il paesaggio nella misura in cui il paesaggio giudica noi. Se il paesaggio è abbruttito, se è brutto, se è ferito, questo non può altro che rimandare alle menti abbruttite, alla nostra vita che si è terribilmente abbruttita e che non considera neanche più l'alienazione in cui vive come in qualche modo stimolo per poter cambiare, ma l'accetta supinamente. E accettandola supinamente fa di quella bruttura che vede la bruttura stessa della sua vita. Sì, io in chiusura direi che ricordo con molta tenerezza questo passaggio nella tua presentazione del libro a cui ho assistito, in cui grazie anche all'aiuto di fotografie e diapositive hai comparato lo stesso paesaggio visto con la neve o senza, in cui la neve chiaramente delimitava in modo molto più visibile l'abuso del territorio. Se volete, io avrei piacere anche di leggervi l'ultima riga di questo paragrafo che ho in qualche modo in cui tratto di questa possibilità altra che la neve mi dà da vedere, sempre all'interno di uno sguardo di dissidenza. Se mi permettete lo leggo, scrivo: una palpolicella desacralizzata, irretita, integrata, normalizzata, cieca un domani che non sia la ripetizione dell'oggi. Una palpolicella senza futuro, finché non vorrà estirpare da se stessa quel cancro produttivista ed estrattivo che la neve, nel suo silenzio, non smette di rivelare e di denunciare. C'è questa grande capacità di un evento meteorologico di denunciarci, di denunciare l'uomo che ha distrutto, che ha depauperato, che ha offeso il paesaggio in cui vive. Beh, Federico, Gabriele, grazie veramente. E consigliamo a tutti la lettura di questo libro perché è molto bello ed è scritto evidentemente da una persona che ama il posto di cui ha scritto. Quindi una buona un buon consiglio è leggete Valpolicella delle mie brame di Gabriele Federico. Grazie mille, Gabriele. Vi ringrazio molto, ora è sempre resistenza, mi verrebbe da dire così. Grazie, sì. Grazie. E ora continuiamo con la puntata di Ponte Radio, del sito della Radio Stacchio. Facciamo una piccola pausa musicale e, per poi passare al tema dei nuovi OGM, rimanendo sempre nella zona della Valpolicella. Com'è triste, com'è amare, sta settata a guardare tutte cose, tutte parole che niente buono fa. Si macina la città che è lo poche libertà, che sta terra e sta gente noi giorno ma darà. Terra mia, com'è bella la panzaga. Terra mia, com'è bella la guardà. Non ne ho vero né sempre stessa, tutte giorno può cagnà. Oggi è dritta, rimane storta, e che sta vita se ne va. I vecchi vanno rinta a chiesa, cavolo una patria, e ha paura sta morta, che non ce vola sa. Terra mia, tu si chiede libertà. Terra mia, i mo senta libertà. Da da da da da da. Pannussa homeinen kahvi ja lattialla astiat. Sade huuhtoo ikkunoita, eipä tarvitse niitä itse pestä. Ei mikään enää lähtemästä estä. Mut on kuin betoniin valettu polviin saakka, seläs näkymätön iloinen taakka, vaik edessä ois enää yksi rasti, en tiedä jaksanko hautaan asti. Olen vankina täällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein mallinen pesti, mut syvempää. Lähikauppaan vain muutaman kaljan jälleen noudan. Jos lisää tarvin, niin hyvin joudan uudelleen. Kun muutoin kuitenkin vain lähinnä makaan, en kotoa poistu syyttä ainakaan. Unohtakaa minut, tahdon olla yksin. Synnyin suruun ja minut puettiin pettymyksiin. Olen vankina täällä ikuisesti, myös hautausmaata kiertävät aidat, kun päättyisi viimein mallinen pesti, mut syvempään kuitenkin maahan vain kaivat. Pidän sinusta, mutten itseäni siedä, en tarvitse muita, sinusta en tiedä, myönnän jos mä lähden.

Ed eccoci ritornati sulle frequenze di Radio Eustachio. Stavamo dicendo appunto di come il territorio agricolo cambia sia dal punto di vista estetico, ma non solo, ovviamente anche da un punto di vista prettamente agricolo e tecnico, perché appunto con l'avvento delle monoculture scelte per motivi puramente economici, cambia anche l'approccio del singolo individuo sull'ambiente circostante, no? E quindi diciamo che da una parte c'è sempre meno possibilità di autodeterminarsi e di poter coltivare la propria terra come si vuole, e dall'altra invece c'è un cambiamento che porta determinate caratteristiche come quella dell'aumento delle malattie, perché chiaramente un territorio dove viene coltivata solo vigna porterà molte più malattie che attaccano quella pianta, e quindi sarà più necessario l'uso di pesticidi da una parte per le malattie e dall'altra magari di fertilizzanti chimici, perché chiaramente in uno sviluppo capitalista dove il profitto è al centro del nocciolo della questione, anche la produzione richiesta deve essere standardizzata, e quindi la natura e l'agricoltura non seguono diciamo anche la differenza di stagioni, il clima, il fatto che certi anni si possano avere dei raccolti maggiori ed altri minori, e a tutte queste criticità questo sistema consumista e capitalista da delle soluzioni per dare una risposta, diciamo, sostenibile, green, queste parole che vanno tanto di moda oggi, che non sono certe quelle che potremmo aspettarci noi, che la terra la coltiviamo e vogliamo agirci direttamente, come quella appunto di diversificare le colture, cercare varietà che si adattano meglio al clima della zona, ma quella di trovare un modo perché il prodotto sia sempre al massimo, e appunto queste soluzioni che vengono date sono da una parte lo sviluppo dell'agroindustria 4.0, quindi l'uso di magari sistemi meccanizzati anche attraverso l'intelligenza artificiale per dare la giusta quantità di fertilizzante, di pesticida ai campi, e con questo metodo per esempio promettono che verrebbero tagliati della metà l'uso di pesticidi, o dall'altra parte anche un approccio di ricerca genetica proprio per sviluppare piante che non avrebbero bisogno dell'uso di pesticidi, però ovviamente senza seguire il corso della natura, che necessiterebbe di troppo tempo. Noi abbiamo bisogno ora e subito, e quindi in questo contesto diciamo che sono nati gli OGM anni fa, e ora in particolare si sono sviluppati i TEA, che sono tecniche di evoluzione assistita, che sono un vero e proprio editing genetico della pianta per poter creare delle piante resistenti, che non hanno bisogno di pesticidi per l'appunto, ma che chiaramente sono piante create in laboratorio, brevettate, e che quindi non sono esattamente come selezionare la pianta che si adatta meglio al clima in un modo meccanico diretto con la terra. Ma insomma, su questo tema abbiamo qui un compagno del collettivo Terra e Libertà che ci parlerà nel particolare di questo discorso. Grazie. Ciao. Ciao, grazie per l'invito. E mi sembra un'ottima occasione parlare di questi temi, perché innanzitutto va evidenziato il fatto che non se ne parla, non se ne sente parlare, sui media, diciamo, mainstream non ne parlano, e quindi è un'ottima occasione quella, attraverso le vostre onde radio, attraverso le radio indipendenti, riuscire comunque a discutere di questi temi e all'urgenza di mobilitarsi attorno a quella che è proprio una nuova tappa di un'agricoltura sempre più industrializzata. E farlo qua dal territorio veronese ha sicuramente un'importanza anche particolare per due motivi. Il primo perché a pochi chilometri da qua hanno tentato di trapiantare alcune piante di Chardonnay geneticamente modificato, editate, quindi modificate dall'Università di Verona. Fortunatamente esperimento non riuscito, grazie appunto ad alcuni ignoti che sono riusciti a eradicarle, e magari dopo ci torneremo, e per un altro motivo, il fatto che proprio qua a Verona, all'interno della fiera AgriTech, è stato firmato un manifesto per la promozione dell'ETEA e del Made in Italy. Un manifesto firmato dai principali sindacati agricoli, quindi stiamo parlando Coldiretti, che in particolar modo ha un ruolo determinante in questa vicenda, ma anche CIA Confagricoltura, e la Lega Coop, la Federchimica, quindi la Federazione dei Chimici Italiani, e l'Associazione delle Sementi, che è quella, diciamo, associazione ombrello che riunisce un po' tutte le ditte, la maggior parte delle ditte italiane di sementi. Beh, in questo manifesto, tra i vari punti che vengono riportati, c'è quello di portare avanti una, chiamo io, propaganda, comunque una promozione a livello istituzionale e non solo, per entrare nei cuori, nelle menti soprattutto dei giovani, ma non solo, della società in generale italiana, affinché queste nuove tecniche rientrino, diciamo, in tecniche convenzionali di selezione delle piante. Perché? Certo, infatti immagino che tutto questo processo, che sembra proprio un processo di marketing, sia anche per discostarsi dai primi OGM, no? Che hanno avuto una forte dissidenza da parte di tutta la popolazione, non solo di antagonista. E dei sindacati stessi, comunque, ricordiamo. Certo. Infatti Coldiretti è recente l'accettazione da parte, per esempio, di Coldiretti ad accettare queste nuove modificazioni genetiche, perché solo col 2020, con il contratto dei camici e trattori, che allora la Coldiretti, stipulando delle intese, si pronuncia a favore di questi nuovi OGM, data fino alla quale, in cui con varie contraddizioni legislative, Coldiretti all'epoca dei vecchi OGM si mostrò contraria alla modificazione genetica. Sì, infatti, come giustamente è stato ricordato prima dalla compagna nell'intervento iniziale, il nome TEA non è un nome, diciamo, pensato a caso. Tecniche di evoluzione assistita è un nome che tendenzialmente nasconde ciò che effettivamente invece rappresentano. Quindi non usare termini quali genomica, modificazione del DNA, breeding, aiuta il pubblico a discostare o non considerare queste piante come delle tecnopiante. E facendo un passo indietro, ci arriva al 2017 o 18 a Bucarest, quando c'è stata una riunione tra tutti i principali produttori di sementi a livello mondiale, all'interno della International Seed Federation, che è questo cappello che appunto comprende tutte le ditte produttrici, e dove hanno sottoscritto una sorta di kit da utilizzare per diffondere questo tipo qua di discorso. E all'interno di questo kit, uno, diciamo, dei punti importanti era quello di far capire che non si trattava per nessun motivo della continuazione dei vecchi OGM. All'interno di questo congresso c'erano ovviamente i principali produttori dei OGM, diciamo, di prima generazione, quelli che nei campi hanno cominciato a vedersi a partire dai primi anni 90, e ovviamente scottati da quella che è stata l'esperienza europea delle contestazioni, delle lotte, delle azioni dirette, hanno pensato che il discorso era da cambiarlo radicalmente, partendo da un utilizzo delle parole che mistifichi ciò che invece realmente sono queste piante. Dico una piccola cosa che forse non è chiara a chi non ha ancora approfondito l'argomento. La differenza, non la so spiegare precisamente a livello tecnico, però la differenza fra i vecchi OGM e i nuovi OGM sta nella menzogna di raccontare che non è una modificazione genetica, quando invece fondamentalmente si tagliano dei pezzi di DNA inserendo o eliminando delle parti dello stesso con il DNA della pianta stessa, e quindi non ci sono inserimenti genetiche di altri DNA di piante, e quindi la grande menzogna è questa, no? Non c'è effettivamente un inserimento di una cosa nuova, è un lavoro della stessa pianta, però comunque sempre che dicono che potrebbe farlo anche la natura stessa. Sì, sempre di modificazione genetica si parla, ecco. Certo, faccio un passo indietro per tornare a questo discorso, perché prima appunto parlavo dell'utilizzo delle parole e TEA rientra in utilizzo di quel tipo lì, di ciò che le multinazionali delle sementi avevano previsto come, diciamo, tattica politica. E TEA è un nome esclusivamente, è un acronimo utilizzato esclusivamente in Italia, che sta appunto per tecniche di evoluzione assistita, nome che è stato coniato dalla Società Italiana di Genetica Agraria, e è appunto quella funzione che abbiamo detto prima, quindi quella di, diciamo, confondere un pochettino le acque. Perché si tratta comunque di modificazione genetica? Beh, è comunque un utilizzo dell'ingegneria genetica di laboratorio, quindi si tratta comunque di intervenire a livello della cellula, del nucleo, all'interno del nucleo del DNA e modificarlo. Non si tratta più, come negli OGM di prima generazione, della transgenesi, quindi inserire materiale genetico che proveniva da organismi di specie diverse, anche di regni diversi, come ad esempio il mais BT o la soia Roundup. Si tratta di silenziare, tagliare o aggiungere dei geni, quindi del materiale genetico proveniente all'interno della stessa specie. Sono tecniche ingegneristiche più evolute, sicuramente più veloci, più rapide, perché ovviamente il mercato ora ha bisogno di sviluppare tante varietà in poco tempo possibile, e questo è dettato anche da un contesto internazionale di corsa, diciamo, agli armamenti anche genetici, e quindi sono molto meno costose rispetto alle tecniche precedenti. Infatti, se noi guardiamo gli OGM di prima generazione, tendenzialmente erano 4. Si parla di mais, di 4 colture, di mais, soia, colza e cotone. Ma perché? Perché per ingegnerizzare quelle piante lì con quei metodi che c'erano fino agli anni 2000 ci volevano grandi quantità di fondi, quindi denaro e risorse, e solamente le grandi multinazionali erano in grado di fare questo. Ora, con le nuove tecniche di ingegneria genetica e nella fattispecie del CRISPR-Cas9, che è una delle tecniche utilizzate, quella sicuramente è una delle più recenti, e questo avviene in laboratori tendenzialmente comuni, nel senso comunque laboratori di genetica, di biotecnologia che si trovano all'università, però con costi sicuramente più inferiori, e questo ha aperto la possibilità anche e soprattutto ai laboratori e agli enti di ricerca, anche pubblici italiani, a voler ritagliarsi la propria fetta anche di mercato. E sul fatto che siano in continuità con tutte le varietà precedenti, beh, non è ovviamente così, perché la selezione che è sempre stata fatta in campo dalle comunità agricole avveniva attraverso un'osservazione diretta della pianta, e quindi si incrociavano piante intere, e ovviamente non si interveniva direttamente sul DNA. I contadini e contadine sapevano di genetica? Quasi mai, nel senso che fino agli anni 50 sicuramente no, e fino agli anni 50, guarda caso, si è sviluppata la maggior parte della biodiversità agricola. Se pensiamo che il mais, da quando è venuto dal Centro America in Italia, e in particolar modo dal Veneto, da Rovigo, e lì si è sviluppato, si è selezionato in tutta l'area, diciamo, della pianura padana e delle valli alpine. Questa, diciamo, diffusione che ha attraversato anche le varie comunità umane, ha portato a ottenere fino a 500 varietà di mais diverse. Ora, nella pianura padana, si coltivano pochissime, diciamo, varietà di mais. Se poi andiamo a vedere, effettivamente, al di là dei nomi commerciali, si tratta di varietà molto simili tra di loro, con una genetica uniforme che appunto porta a tutti quei problemi che sono tipici di un'agricoltura industriale e che sono appunto la maggiore vulnerabilità rispetto a parassiti, a patogeni, e quindi la necessità di intervenire con pesticidi, con erbicidi, e quindi ritornare a utilizzare tutti quegli strumenti che l'agricoltura industriale ha sempre venduto all'agricoltore. Quello che stavi dicendo prima del fatto che è un metodo più economico mi risuona proprio come il nucleare, che settimana scorsa su Radio Onda Rossa c'è stato un interessante puntata di Ponte Radio incentrato sul nucleare, e stanno cercando, insomma, di andare incontro al grosso problema. Il grosso problema qual è? Il gran finanziamento che serve per fare una base nucleare per l'enorme difficoltà che comporta questa cosa, e stanno sviluppando dei reattori a modulo, quindi più economici, e cose che si possono sobbarcare anche i privati, diciamo, le singole aziende, con l'ammiccamento statale. Però insomma il cambio è anche quello, no? Laddove si vedono delle montagne insormontabili, si cerca in qualche modo di sguinzagliare il privato, di dargli delle possibilità, di fargli vedere che può ottenere il suo introito. Perché in tutto questo non c'è solo il discorso del discorso finto, volendo, per come affrontato, di contrastare i fitofarmaci con delle piante che non ne hanno bisogno, che poi in realtà, guardando in passato, era un discorso che si faceva anche con i vecchi OGM, che però poi è ritornato contro nel momento in cui le piante hanno bisogno di prodotti che la stessa azienda riforniva. Ma perché? Perché le piante sono brevettabili da quel punto in poi. Cioè, da quando una pianta è modificata, diventa proprietà dell'essere umano che l'ha modificata. E questo cambia tanto le cose, cambia tanto le questioni. Io farei un attimo una piccola pausa musicale, dopo della quale manderei in onda degli interventi che ci sono stati in un presidio settimana scorsa a Monselice, a sud di Padova, proprio per informare e contrastare, insomma, questa sorta di deriva. E nel frattempo ringraziamo dunque le due studiose chimiche che nel 2015 hanno appunto sviluppato il CRISPR-Cas9, che grazie a queste due chimiche, che hanno anche vinto il primo Nobel nel 2020, siamo in questa situazione. Vi prego tutti, o cittadini, di ascoltare pori contadini, che dopo tanto che si lavora e mai di pace non abbiamo un'ora. Con la zappa e lo zappone e lo zaino e sui groppone, giovani e vecchi tutti armati, noi sembriamo tanti soldati. Si va con la speranza della raccolta, si spera sempre sarà dimorta, poi per la ruggine e la brinata, ecco la vita bella e disperata. Quando la faccenda è fatta, qui po' di grano che si raccatta, e poi viene la battitura, e tutti corgano con gran premura. Il primo frate che vien sull'aia salute capoccia e po' la massaia, e a sedere si metta il fresco, lo vuole grano per San Francesco. Poi c'è Cappuccino con quella barba che gli ci viene dopo l'alba, padre Dionisi e San Gregorio, a catà dell'anima e purgatorio. Poi c'è la Monica con la sacchetta, lo vuole gran per Santa Elisabetta, per mantenere l'uso e il sistema, è contadino la raccolta scema. poi c'è il sensale con la bugia, lui più di tutti ne porta via, e con la scusa di vedere la stalla lo vuole pieno per la cavalla. Poi c'è il dottore veterinario, il fabbro e sarto e calzolaio, la levatricione, il becchino e tutte addosso il poro contadino. Mangiare e bere a mietitori e poi pagarli saranno dolori, e gli ci corre giù alla lesta, al contadino cosa gli ci resta? Lasciamo sta queste partite, ma ce n'è d'altre più squisite, e di tutte queste è peggiore, la mezza parte la vuole il padrone. Poi viene il tempo della vendemmia, e allora sì che si bestemmia, e li si mette dentro le botte, e li si vende buonanotte. Poi si prende un po' di vinaccia, si fa una botte con acqua e taccia, e li si beve tutto l'inverno, si soffre pene dell'inferno. Poi c'è la massaia che viene in piazza con quei polli di prima razza per divestire i loro bambini a casa porta dei salacchini. Poi c'è le ragazze fresche e belle per farsi il letto e le gonnelle, e dietro l'uscio le ponga all'ova e di gli spiaccia pone sulle cova. Così successa a miei finali, e si sta peggio dei maiali, e si lavora quante voi, e maltrattati siamo sempre noi. Qui a San Pietro Viminario è stata aperta da un anno probabilmente, è una piccola azienda, una start-up direttamente collegata all'Università di Verona, dove praticheranno la sperimentazione in pieno campo dei vitigni OGM, dei vitigni TEA, una sperimentazione che è stata portata avanti dall'Università e dal Vit Italy, questa azienda, e inizialmente sono stati piantumati a Verona, a San Floriano, un centro di ricerca a San Floriano, sono state piantumate queste piante. Fortunatamente alcune persone, come spesso succede quando si piantano le piante OGM, hanno preso la decisione di andare lì e tirarle via. Giustamente, come nella storia recente e antica degli OGM, la gente non li può vedere, non li può sopportare. Di fatto questa azienda Vit Italy persiste in un territorio dove viene fatta dell'agricoltura specializzata, delle orticole. Se andate a vedere, questi vitigni verranno piantumati vicino agli orti, vicino alle piante che la gente, alle orticole che la gente andrà a consumare al mercato. È una cosa indecente. Se uno va a vedere come viene trattato un campo sperimentale, si rende conto della pericolosità. Sono 28 metri quadri di piantumazione per poche piante, completamente circondate da delle reti per far sì che gli uccelli non possano andare a prendere e impollinare le altre piante. E quando la sperimentazione sarà fatta, dovranno essere distrutte e incenerite tutti i residui delle piante. Questo dà un attimo il polso di come e della pericolosità di queste piante, di queste sperimentazioni. Le impollinazioni tramite vento, uccelli e insetti vanno a contaminare fino a chilometri di distanza. L'abbiamo visto con l'ultima sperimentazione abusiva di Fidenato nel Friulano, dove gli anni successivi sono stati fatti dei test, delle ricerche dei campi adiacenti, ed erano ancora, dopo anni, impollinate da questi elementi OGM, da questi elementi geneticamente modificati. Anche le piante delle agricolture biologiche, dei contadini che coltivavano in maniera tradizionale, sono stati per anni contaminati da queste varietà. È per questo che la pericolosità di questo momento è fondamentale, siamo a livelli di un punto di non ritorno, perché la comunità europea, già l'Italia, ma la comunità europea dovrà esprimersi nei prossimi mesi proprio per declassificare queste varietà, di togliere la possibilità dell'etichettatura e della tracciabilità fino a 20 modificazioni genetiche, il che vuol dire che la gente mangerà dei prodotti comprati al supermercato, nei negozi, senza etichettatura. Fino a 20 modificazioni genetiche si potranno comprare robe senza saperlo. E i contadini, fino a 20 modificazioni genetiche, acquisteranno semi e non sapranno che sono semi geneticamente modificati. Questo è un pericolo che anche 20 anni fa, anche 10 anni fa, non si proponeva, perché tutto doveva essere certificato, tutto doveva essere in qualche modo tracciato. E un'altra nuova nocività, pericolosità che negli anni scorsi non si proponeva è quella che i semi attualmente vengono digitalizzati. Praticamente stanno cercando di costruire delle piante senza partire dai ceppi primari, senza partire dalle banche del seme. E se riusciranno in questo progetto mortifero, malefico, praticamente le banche del seme, che è l'unico patrimonio genetico che da anni, che da 10.000 anni l'uomo mette assieme, erano i contadini una volta che selezionavano i campi, in ogni posto che selezionavano i semi, in ogni località avevano le proprie sementi, avevano le proprie varietà genetiche. Adesso lo vogliono fare a livello digitale, con l'intelligenza artificiale vogliono sequenziare il DNA di varie piante in maniera totalmente artificiale. Ecco, questo era un intervento avvenuto domenica scorsa a Conselve, il paese dove c'è la sede della ditta di Evite, che è quella che si è la startup, diciamo, che si è resa responsabile delle coltivazioni TEA sulla vigna qua in Valpolicella. Stavamo dunque affrontando la questione della brevettabilità. L'obiettivo finale ovviamente è quello di privatizzare le piante, perché è lì che poi il biotecnologo, la ditta sementiera ha un ritorno economico. Quindi il tecnoscienziato entra a livello di meccanismi più profondi degli organismi viventi, quindi del vivente, per piegarli ai propri scopi, ai propri obiettivi. Quindi il vivente da libero, che dovrebbe essere e di tutti, diventa un luogo di conquista e di pochi. E quindi la logica dei brevetti spinge verso una produzione artificiale del vivente, la quale estende a sua volta la sfera di tutto ciò che è brevettabile. E questo avviene sia a livello di semi, diciamo, e materiali di propagazione fisico, ma oramai nell'era dell'intelligenza artificiale, dello sviluppo delle tecnoscienze e dell'informatica, avviene anche attraverso lo sviluppo del digitale. E è il caso appunto di quelli che vengono definiti Digital Sequence Information, DSI, che sono proprio il trasferimento digitale di sequenze di informazioni genetiche. Cioè, fino a qualche decennio fa, la multinazionale di turno che voleva appropriarsi della biodiversità agricola doveva soprattutto nelle zone del sud del mondo, dove la biodiversità era più sviluppata, e rubare, prendere le varietà locali, sequenziarle, estrarre i geni di interesse, diciamo, tecno-industriale, e inserirle nella pianta da modificare. Questo veniva giustamente definito come biopirateria. Bene, ora che le tecnoscienze, le tecnologie cosiddette convergenti sono sviluppate all'ennesima potenza, non è più necessario recarsi fisicamente e avere la pianta per poterla modificare, ma semplicemente ci sono delle banche dati e dove sono inserite tutte le sequenze genetiche di moltissime varietà presenti sul pianeta Terra. E spesso sono delle banche dati a libero accesso, alle quali una multinazionale può accedere e attraverso dei motori di intelligenza artificiale selezionare quei caratteri che sono più interessanti dal punto di vista economico, inserirle all'interno della pianta che si vuole modificare e poi chiedere il brevetto e poter brevettare la pianta. E stiamo parlando di un settore, quello dell'industria sementiera, che ad oggi a livello mondiale è praticamente in mano a pochi cartelli dell'agrobusiness, in particolare in quattro multinazionali che sono la Bayer Monsanto, la BASF, la Syngenta e la Corteva, che detengono attualmente fino al 62% delle sementi a livello mondiale. Sempre, sì, scusa, no, stavo pensando a proposito della digitalizzazione dell'accumulo di dati, sempre parlando come prima abbiamo fatto sulla agricoltura 4.0, quindi il sistema tecnologico che sta prendendo piede in Europa, fomentato e pompato di denaro pubblico con il PNR appunto. Attraverso trattori, guida autonoma, droni per la raccolta, ma e soprattutto un sistema tecnologico attraverso lo sviluppo dell'internet delle cose che non prevede più un soggetto umano, ma vede direttamente le macchine comunicare tra loro, e anche lo sviluppo di una capillare sensoristica, appunto una raccolta dati che la raccolta dati che viene gestita da chi? Non più una padronanza appunto del contadino, dell'agricoltore o chi per esso, ma sono tutti dati che devono essere gestiti da multinazionali, come dici tu, nel campo sementiero, ma altrettanto nelle tecniche agrarie, verranno controllati da chi saprà gestire questa enorme mole di dati. Ecco. Certo. E tra l'altro con la menzogna che raccogliere questi dati sia tutelare le varietà locali e fare archivio di queste varietà. Sì, l'agricoltore si trova sempre più in un sistema blindato a monte e a valle del campo agricolo. Quindi ci troviamo di fronte a un'agricoltura 4.0 che impone all'agricoltore nuove dipendenze. L'agricoltore non si trova più dipendente solamente dalle ditte sementiere, non più solamente dalle ditte della meccanica agricola, la John Deere, la Kubota, ma ora si trova anche di fronte alla dipendenza delle grandi aziende informatiche. Infatti l'obiettivo è quello di spopolare ulteriormente le campagne e produrre cibo in quello che viene definito latifondo digitale, dove appunto la presenza umana è più che rarefatta, trasformare i contadini in dei tecnici, degli ingegneri, degli informatici, non avere più un contatto diretto col suolo, con le piante, con le conoscenze, perché tutte queste conoscenze attraverso l'intelligenza artificiale vengono vampirizzate, vengono estratte, vengono acquisite dalla grande macchina per farne poi un uso che è quello delle multinazionali, quindi rivendere i dati o sviluppare delle tecnologie nuove e quindi essere più performative in un processo che alla fine vede l'espulsione di sempre più esseri umani. E infatti se si vanno a verificare quelli che sono i dati dell'Istat di questi processi qua, si vede che dai primi anni 80 al 2020 circa 2/3 delle aziende italiane hanno chiuso. Ma si va a vedere chi rimane, si vede che i contadini e le contadine rimaste hanno avuto un aumento del lavoro di circa il 20%. Cosa vuol dire? Che in realtà anche la tecnologia non serve a liberare, come tanto spesso viene mostrato, l'uomo dalle fatiche, ma anzi viene semplicemente una modalità per togliere gli agricoltori dalle campagne e arricchire sempre i soliti noti. Infatti anche perché non c'è una grossa distinzione esattamente tra chi sceglie e chi non sceglie questi metodi qua, perché nel momento in cui si coltivano piante modificate l'impollinazione è incontrollabile, ovviamente, per quanto tu possa mettere reti intorno per non far arrivare uccelli, ma cioè insetti e quant'altro, l'impollinazione la fanno naturalmente. E nel passato ci sono stati anche casi in cui, per esempio, sono andati, cioè la polizia, possiamo chiamarla la polizia campestre della Monsanto, è andata a richiedere diritti su ciò che era stato coltivato nei campi a fianco, perché ovviamente sono rispuntate incroci di piante con il seme brevettato, quindi il seme con proprietà privata, diciamo. E quindi anche dei contadini che non hanno seguito questa scelta qua si sono ritrovati puniti, diciamo, da questo sistema. Quindi anche da questo punto di vista non c'è tanta differenza sui TEA nuovi, perché subiranno le stesse condizioni, evidentemente. Certo, e infatti è interessante andare a leggere quello che il Ministero, le diciamo prescrizioni che il Ministero ha scritto a riguardo del campo di riso in Lomellina, sempre TEA, che è stato trapiantato circa un anno fa, che poi è stato anche quello fortunatamente distrutto. Se si vanno a vedere le indicazioni, si vede che per evitare la contaminazione, questo è ovviamente sempre in linea teorica, perché poi la contaminazione avviene attraverso gli elementi naturali che sono di per sé incontrollabili, però le prescrizioni che indica il Ministero per mostrare che comunque almeno di facciata c'è una certa serietà riguardano la pulizia dei macchinari, la semina tutto attorno al riso OGM di piante di riso più alte in modo da evitare la contaminazione con altre sementi, l'interramento e bruciare i residui colturali, il non coltivare più in quel terreno per 18 mesi, cioè pratiche che se effettivamente bisognasse estendere su una coltivazione diciamo professionale o comunque dell'agricoltura standard sarebbe impraticabile. Quindi questo discorso cosa ci dice? Che il vero principio di precauzione è quello di non coltivare assolutamente queste piante qua, perché sono per definizione incontrollabili. Il problema è che la maggior parte delle ricerche, anche a livello di ricerca pubblica, non vogliono e non possono ricercare quelli che sono gli effetti sull'ecosistema, perché l'ecosistema è talmente complesso che soprattutto nella mente del biotecnologo che ha una visione del mondo meccanicista riduzionista, cioè che considera solamente quei geni di interesse tendenzialmente economico, tutto il resto, quindi la complessità del vivente ma anche la complessità del DNA viene in gran parte esclusa dal proprio campo di indagine. E infatti le tecniche che vengono utilizzate come il CRISPR-Cas9, se si va a vedere, in realtà non sono così precise come dicono. Si va a intervenire solamente su quella percentuale di DNA che si sa che danno determinate funzioni, ma in realtà non si considera il 98% del DNA che serve a regolare altri geni, ma la cui vera funzione noi non conosciamo. Si esclude il fatto che ogni organismo vivente si comporta in maniera diversa in base al contesto ecologico nella quale viene coltivato. Ecco, tutti questi aspetti qua che una scienza, diciamo, moderna non considera, perché l'obiettivo effettivamente è quello di arrivare nel più breve tempo possibile a una pianta che sia uniforme, perché poi esistono anche i registri delle varietà all'interno dei quali vanno registrate piante uniformi con certe caratteristiche standard, l'obiettivo è quello lì, quindi quello di generare una pianta che risponda almeno nei primi anni a ciò che promette di fare. Dopodiché si va verso quella che viene definita, viene utilizzato come termine per gli elettrodomestici o per le altre, diciamo, brevetti industriali, che è l'obsolescenza programmata. E anche le piante di questo tipo qua, alla fin fine, dopo un po' di anni, si va a vedere e ritornano, diciamo, a possedere, ad avere gli stessi problemi che avevano le piante precedenti. Quindi è una falsa soluzione a problemi creati dall'agricoltura industriale. Nonché anche la narrazione che viene usata, che collega appunto anche con quello che si diceva prima sul paesaggio, cioè che le imprese del vino, che fanno tutta una narrazione particolare coprendo e mascherando quali sono i veri poi interessi dietro a tutta la montagna che c'è da questo punto di vista. La narrazione del CRISPR-Cas9 è quella delle forbici che tagliuzzano, che sembra una cosa di precisione, di... sì, diciamo, di una precisione scientifica che ti dà anche una certa sicurezza, mentre un'altra, diciamo, metafora che dava il libro di Panier, il libro di Panier che si intitola Perché fermare i nuovi OGM, di Stefano Mori e Francesco Panier, ridava un'idea diversa, ossia che è come passare in un centro cittadino con un drago al guinzaglio. Questa era una metafora diversa di come concepire queste trasformazioni. Io qui farei un breve stacco musicale, che ci stiamo avviando verso la fine della puntata, e per poi chiudere con i saluti. Coppa all'evere che dura, se ne scende ne colore, e cammino via chiariello sotto luna. Quanti volte si è fermata per parlare con qualcuno, e non ci sta mai nessuno che si ferma per sentire. E cammina, cammina, vicino porta, e rarenna, pensa morto. Se venessimo, fossi più contento, tanti parlo e nessuno mi sente. Guarda no mare, pensa a Maria, che mo non c'è sta più. So solo 3 anni e ci penso tutte sere, passo tempo e non mi paro vero. Quindi stiamo verso la conclusione della puntata e vogliamo un attimo ribadire l'urgenza di continuare a parlare di nuovi OGM, anche perché dal 2023 comunque con il decreto siccità c'è stata la possibilità in Italia di sperimentare i nuovi OGM in campo aperto, quindi è assolutamente urgente continuare a parlarne. Dunque lanciamo un po' di incontri e appuntamenti. Se possibile, magari un quadro anche della situazione attuale, perché abbiamo parlato del riso, abbiamo parlato della vigna. Se possibile, col compagno di Terra e Libertà vorremmo fare anche un quadro un po' della situazione attuale sul campo TEA. E sì, come diceva giustamente la compagna, siamo in una situazione, diciamo, un po' intermedia, dove a livello europeo si sta ragionando di cambiare la normativa attualmente esistente, che prevede che queste nuove tecniche rientrino nella normativa sugli OGM, quindi attualmente l'Europa considera le NGT, le TEA, i nuovi OGM come OGM, però il tentativo da parte di tutte la maggior parte dei sindacati agricoli e poi anche delle multinazionali che premono tanto sull'Europa è quella di appunto differenziare le due tecnologie, no? E l'Italia appunto ha fatto un po' da apripista con la possibilità per la prima volta in Europa di sperimentare in campo aperto queste nuove tecnologie. Paese, l'Italia, che tra l'altro aveva firmato una moratoria dove quindi era vietato coltivare gli OGM grazie appunto a mobilitazioni che ci sono state nei decenni passati, e attualmente ci troviamo in una situazione dove università di Verona, di Milano, Fondazione MAC in Trentino, il CREA, che è il principale ente di ricerca pubblico che si occupa di tanti settori dell'agricoltura e delle foreste, sta sviluppando anch'esso nuove tecnologie e quindi attualmente prossimamente si vedranno nuovi campi sperimentali in provincia di Trento per quanto riguarda un'ulteriore vite, e in provincia di Parma per quanto riguarda un pomodoro, e sembra che ce ne siano altre anche in Piemonte. E l'invito è ovviamente quello di mobilitarsi sui territori, di far conoscere questo tentativo di aprirsi completamente a queste tecnopiante, perché la posta in gioco è molto importante, ne va dell'alimentazione di tutti noi. E forse è importante anche ricordare una nozione che aveva detto Ivan Illich qualche decennio fa, che distingueva quelli che erano i monopoli comuni dai monopoli radicali. I monopoli comuni sono quando si vengono accaparrate le sementi, in questo caso qua. Monopoli radicali è quando la tecnoscienza impedisce di far da sé. Nel momento in cui tutte le sementi verranno modificate geneticamente e saranno sottoposte a un brevetto, il controllo dell'alimentazione, delle sementi, di cosa mangiamo, di come coltiviamo, sarà tecnicamente dato tutto in mano a questi pochi attori a livello mondiale. Tecnici più che contadini. E chiudiamo quindi con un appuntamento che abbiamo tra un paio di settimane qua in territorio veneto. È una marcia Stop Pesticidi che sarà da Cison fino all'Abbazia di Follina domenica 30 marzo alle ore 10.30. Ne daremo informazione anche nella pubblicazione del podcast di Ponte Radio. E quindi lanciamo anche un mercato che sarà a giugno, non abbiamo ancora la data precisa, in Trentino, a Trento, di Gemino Clandestino, con tema proprio TEA nello specifico. E quindi chiudiamo salutando tutte le radio che fanno parte del Ponte Radio: Radio Quare, Radio Neanderthal, Spore, Radio Onda Rossa, Wombat e Blackout. Ringraziamo anche per chi ci ha scritto e per le riflessioni sull'intervento di Gabriele, e siamo contenti che abbiate apprezzato. E un saluto particolare a chi è privato della propria libertà personale. Quindi qui manderemo anche dei saluti particolari, degli audio che ci sono stati inviati, perché si possono sentire dentro le carceri, ed è un saluto per Juan. Alla prossima e buon fine settimana. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Capelò! Capella! Capella! Capellon! Un forte abbraccio, hermano! Pensa che galassia in autostop. Vedo il globo da uno blob, brinda che la gente è stinta nonostante condominavo il mondo, adesso ci può per i condor. Lo ricordo, un calco nel suo colon. Coloni zavano coi droni, alzavano prigioni e croci. Atroci come caglie trucidate, date docili, risorse nelle cave, sorsero le piaghe, a civiltà dorate come tombe faraoni. Troni in plastica, combatto, bombe film meccaniche accettate. Dall'alto in Sud America a Benetton gettate d'asfalto. Malto darsi d'occhio per domarli. È un morso ai loro arti, se un motore a scoppio basta per addormentarli. Darli nella testa, c'è chi in mezzo alla tempesta. Andiamo, cerchi nei campi di grano, cosa cerchi? Campi ad OGM, oggi è meglio, digiuniamo. Tela, detto Bayer e Monsanto, schiacci pasti, sei on fire. Ecco il pane quotidiano, diavolo del capitale, amico. Sumo fino ad ingrassare come un lottatore. Sumo, assumo droghe ma senza contratto. Ha dato il corpo a pesticidi, chimici, mestifichi, sottili. Vincoli tra infatti e diverticoli, goliti per Ambrogio, non è fallo l'anguorino. Pietanza fatta scienza, il tumore è garantito. Come lo stipendio 4-0 ai senatori. E una pacca sulla spalla ai muratori. Che sta merda manda fuori, donna ulcere e tumori. Pollo fritto del Kentucky, mischiato con i geni dei macachi. Io gusto della tecnica, camerezza marcia, impero nanotech. Esercito del marcia, tecnica del gusto. Camerezza marcia, impero biotech. Esercito che marcia. Mille tonnellate di derrate alimentari, dritte dai laboratori, fino ai centri commerciali, agli scaffali. Frutti artificiali, cibi per i cloni. Mangi mais, vinci code di scorpioni. Fibrosi tumorali, ciò che mangi taci e mastica. La mela se la assaggi, sa di plastica. Tu mastica il colore di sta fragola. Tonalità fantastica, sti cazzi se il genoma è dell'anguilla artica. DNA di no Godzilla. Hai giocato con la vita dentro quell'ampolla. E quando tutto crolla, hai gentora in sulla folla. Con la pandemia dilaga questa piaga che ti annulla. Non ti salvi il clone con le scorte dentro il bunker. Dici che sei un king king, ma per me sei un burger. Tossico, cancro conseguenza. Risotto a sci-fi, la pietanza è fantascienza, è garantito. Come lo stipendio a 4-0 ai senatori. E una pacca sulla spalla ai muratori. Che sta merda manda fuori, donna ulcere e tumori. Pollo fritto del Kentucky, mischiato con i geni dei macachi. Gusto della tecnica, camerezza marcia, impero nanotech. Esercito del marcia, tecnica del gusto. Camerezza marcia, impero biotech. Esercito che marcia. Ehi, hey.